Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buona giornata da Deborah Rosciani, benvenuti a Salva Danaio, un Salva Danaio speciale estate. In queste giornate di caldo e sole, magari in sdraio sotto l'ombrellone, qualcuno legge riviste leggere, gli ultimi saggi, un bel appassionante romanzo d'amore. Sicuramente ci sarà anche chi si tiene aggiornato su altri temi, su altri argomenti e si prepara a sfidare l'autunno, l'autunno economico, l'autunno finanziario. Una sfida che ci riguarda tutti è sicuramente quella previdenziale. Siamo in un momento in cui lo Stato sta intervenendo per allungare l'età pensionabile e in cui si cerca di portare l'attenzione di tutte le famiglie sulla necessità di contribuire in modo sempre più significativo alla costruzione della pensione attraverso forme di previdenza complementare. Su questo tema c'è chi ha le idee molto chiare, chi invece non sa da che parte cominciare. Tra l'altro, la questione di base è che ognuno deve capire che non ci sono regole valide ed universali per tutti, ma ognuno deve scrupolosamente esaminare la propria situazione individuale e fare delle razionali previsioni sul proprio futuro personale e familiare. I dubbi che serpeggiano sull'argomento sono molti e a questi dubbi hanno cercato di dare una risposta due autori di un libro. Una canzone per te. Non te l'aspettavi, Cosa c'entra con la previdenza complementare Vasco Rossi? Lo scopriremo questa mattina intanto con uno dei due autori del libro che vi ho citato, Una canzone per te. Il libro si chiama invece Una pensione per te, non te l'aspettavi . Buongiorno ad Andrea Enrico Milesio, uno degli autori. L'altro autore di questo testo è Alberto Cauzzi. Andrea, bentornato a Salva Danaio, buongiorno. Grazie, buongiorno Deborah e un buongiorno a tutti i tuoi radioascoltatori. Andrea Milesio, lo abbiamo già invitato in passato a Salva Danaio, ha scritto anche un altro libro molto interessante, La pianificazione patrimoniale della famiglia nella vita, si occupa di consulenza finanziaria e formazione, in particolar modo presso Azimut, che è una grande società di gestione del risparmio indipendente, una delle più conosciute nel nostro paese. Mi veniva da chiedergli come mai fosse stata mutuata come titolazione di questo libro la canzone di Vasco Rossi. Non è stata un'idea tua, Andrea, ma della casa editrice, però insomma un'idea avvincente sicuramente. Assolutamente sì, visto anche il tour 2011 di Vasco, quindi ritengo che Sperling abbia fatto una buona scelta di Abbiamo anticipato anche appunto la casa editrice che pubblica il libro e ricordiamolo che lo si può trovare in libreria a 16,50 euro. Allora, si tratta del libro Antipanico per pianificare il nostro futuro. Mi stupisce un po' la scelta dell'aggettivo dato a questo libro, antipanico, perché effettivamente forse quando si pensa al nostro futuro, soprattutto in un momento così delicato per la finanza e per l'economia internazionale, ci si pensa forse adesso con un po' di apprensione. Ci hanno quasi convinto che nessuno di noi avrà la pensione da parte dello Stato fra 30-40 anni, Andrea. Ma questo è un allarmismo che il più delle volte ha colpito soprattutto persone con poche conoscenze dal punto di vista pensionistico / previdenziale. Noi dobbiamo ritenerci fortunati di avere un ente come l'INPS che a livello mondiale oggi è forse l'ente che a partire dalla sua storia si è occupato veramente del problema previdenziale del nostro paese e anche con l'ultima manovra messa in atto nel 2010, diciamo così, ha messo in cassaforte il nostro futuro previdenziale. Quindi è giusto preoccuparsi, però non bisogna fare del sano terrorismo, ma io riassumo quello che vuole essere un po' la mia filosofia quando parlo di previdenza, quando parlo di pensione ai miei colleghi. Io dico sempre che oggi ai cittadini lavoratori italiani mancano soprattutto le tre C. Le tre C stanno per consapevolezza, per conoscenza e per comprensione. Consapevolezza nell'integrare, magari di capire come integrare la propria pensione per arrivare, soprattutto per le categorie più giovani, ad avere quindi un assegno di quiescenza importante. La conoscenza, esistono varie tipologie di strumenti di previdenza complementare, e la comprensione è quella quindi di capire che sottoscrivendo anche un prodotto di previdenza complementare possono esserci anche dei servizi allegati estremamente interessanti. La sfida della previdenza complementare è stata sollevata nei confronti dell'opinione pubblica in maniera molto dirompente quando c'è stata la famosa riforma del TFR che ha portato molti lavoratori a dover fare una scelta. Era il famoso primo semestre del 2007, i lavoratori dovevano scegliere se mantenere il trattamento di fine rapporto in azienda oppure dirottarlo in forme di previdenza complementare. Lì è stato veramente il primo momento forte in cui all'attenzione dei lavoratori italiani si è posta questa questione. Forse prima una grande anche comunicazione su questi temi non c'era stata, devo dire che forse non c'è stata neanche successivamente alla riforma del TFR, però quantomeno adesso se ne parla molto di più del passato, Andrea. Assolutamente sì, il trattamento di fine rapporto, conosciuto dai molti come la cosiddetta liquidazione, quindi di fine attività lavorativa, è entrato dal luglio del 2007. Questo termine è entrato in quasi tutte le principali, diciamo così, nelle principali famiglie italiane, soprattutto famiglie, e questo mi piace sottolinearlo, dove ci sono dei capi famiglia ormai in quiescenza che stanno andando in pensione e famiglie che hanno anche dei figli magari più giovani, e quindi sono stati, la cosa è abbastanza buffa, dalle prime ricerche che sono emerse quindi in questi 3 anni, che chi ha sottoscritto un prodotto di previdenza complementare, quindi importando il proprio TFR all'interno appunto del fondo, sono stati giovani, sono stati lavoratori che sono stati sollecitati dai genitori, quindi c'è stato in famiglia un viatico nel dire forse è il caso che inizi anche a pensare a trasferire questo trattamento di fine rapporto in una forma che su un orizzonte temporale di lungo periodo potrebbe e darà dei risultati importanti. Questo è un tema molto interessante, peraltro, perché è curioso questo aspetto che molte famiglie spingano i giovani a sottoscrivere forme di previdenza complementare. Magari lo fa un papà cinquantenne, spinge il figlio ad attivarsi con un fondo pensione o con una polizza, mentre ritiene come cinquantenne che per sé non sia necessario sottoscrivere uno strumento di previdenza integrativa. È vero che c'è questa tendenza, Andrea? È vero, questo è vero. Da una recente ricerca, quindi, che è stata condotta dal gruppo Cattolica Assicurazione, è emerso che il futuro dei figli e la pensione sono, diciamo così, fra le preoccupazioni più forti delle famiglie, dei capi famiglia, appunto, delle famiglie italiane. A questo punto io posso dire che oggi un potenziale sottoscrittore di previdenza complementare, come giustamente hai sottolineato, può essere anche una persona che ha un'età vicina ai 50, ai 55 anni, addirittura, magari dico qualcosa di blasfemo che qualcuno potrebbe saltare dalla seggiola, secondo il mio punto di vista oggi un 55enne, un 58enne ha tutto l'interesse per entrare in un prodotto di previdenza complementare, di trasferire il suo TFR all'interno di un fondo pensione. Questo perché? Perché i vantaggi fiscali sono estremamente interessanti, perché io invito di andare a leggere come funziona la tassazione del trattamento di fine rapporto per un lavoratore che va in quiescenza e quindi capire come viene tassato questo tesoretto finale, questa sua liquidazione. Se io vado a confrontarlo con i miei 5-6 anni, magari se ho 58 anni, arrivare fino a 65, utilizzo ancora 65, esatto, perché non voglio, esatto, spaventare perché, nessuno. Esatto, però insomma, siccome l'età pensionabile sarà sempre di più agganciata alle aspettative di vita, per cui il 55enne, 58enne di adesso non è detto che ci vada a 65 anni, potrebbe andarci a 67, 68 fra qualche tempo, per cui forse è il caso di pensare anche ad una possibile integrazione. Assolutamente. Cioè si fa in tempo a pensare ad una forma integrativa che renda la pensione un po' più interessante. Ecco. Assolutamente, però ritorno a sottolineare, se posso, l'importanza di entrare anche per una persona che dovrà restare in un fondo pensione per 5, 7 e 10 anni, che grazie all'agevolazione fiscale, che è la peggiorativa per chi entra in un fondo pensione, è del 15%, quindi sulla prestazione finale maturata. Devo dire che nei confronti magari della prima scala di aliquota IRPEF, di come è tassato il TFR, vedremo anche adesso adesso quale sarà la nuova tassazione di aliquote IRPEF, però c'è sempre un buonissimo vantaggio e quindi è inutile forse regalare una tassazione meno agevolata, lasciando negli ultimi anni di vita, cioè di vita lavorativa, il TFR, quindi in azienda, e magari portarlo nel fondo pensione, dove ho sicuramente dei vantaggi fiscali importanti. Ritorniamo ai concetti generali espressi dal tuo libro, Andrea Milesio, lo ricordo, Una pensione per te, il libro antipanico per pianificare il nostro futuro, per riuscire a gestire al meglio il nostro rapporto con il sistema previdenziale. È e sarà sempre più importante conoscere la logica che lo regola nel suo insieme, non soltanto per quanto riguarda la previdenza pubblica. Un sistema che, con un'immagine molto efficace, viene definito da questa guida dei tre pilastri. Andiamo a sentire di cosa si tratta e quali sono questi tre pilastri. Il nostro sistema previdenziale segue la logica dei tre pilastri che insieme lo reggono. Se uno viene a mancare, la struttura ha dei cedimenti. Per avere una pensione importante, è necessario dotarsi di strumenti presenti in tutti e tre i pilastri. Proviamo a paragonare i tre sistemi al nostro rapporto con il cibo. Di solito di prima mattina, quando ci alziamo, facciamo colazione. Verso mezzogiorno andiamo a pranzo e chiudiamo la giornata con la cena serale. Provate a traslare questo esempio in ambito previdenziale e capirete perché, quando arriveremo alla sospirata pensione, associeremo il pranzo con la previdenza pubblica, la cena con la previdenza complementare, la colazione con la previdenza integrativa. Il primo pilastro è costituito dalla previdenza pubblica, il cui scopo è quello di erogare una pensione minima finanziata dai lavoratori e dai datori di lavoro. È gestito secondo il sistema della ripartizione. Ciò significa che i contributi versati dai lavoratori e dalle imprese vengono utilizzati per pagare le pensioni correnti. In pratica, un contratto intergenerazionale dove non c'è accumulazione di riserve. Fino a quando i lavoratori che contribuiscono sono tanti e i pensionati pochi, tutto va bene. Ma quando, ed è quello che sta accadendo oggi, la popolazione invecchia e il rapporto si inverte, nascono serie difficoltà. Il secondo pilastro è realizzato attraverso i fondi pensione. È gestito secondo il sistema della capitalizzazione. I contributi individuali raccolti sono investiti al fine di generare un montante da convertire in rendita al momento del pensionamento, attraverso una gestione che non passa attraverso lo Stato. Ognuno risparmia per se stesso senza il pericolo di essere penalizzato da ipotetici guasti del sistema. Il terzo pilastro è rappresentato dalla previdenza integrativa individuale, che ciascuno può realizzare attraverso forme di risparmio individuali, con la finalità di integrare sia la previdenza pubblica sia quella complementare e mantenere così invariato il proprio tenore di vita una volta cessata l'attività lavorativa. Andrea Milesio lo ripresenta, abbiamo sentito uno stralcio tratto dal suo libro Una pensione per te, libro antipanico per pianificare il tuo futuro, un libro che nasce, come ho già detto in apertura, per rispondere anche a tutti i dubbi che ci sono tra le famiglie e tra i lavoratori sul tema previdenziale integrativo. Quali sono questi dubbi, quelli più diffusi, quelli che hai modo di conoscere anche facendo tanti giri in Italia con il sistema bancario, in tante altre occasioni pubbliche? Quali sono ancora, come dire, le perplessità più diffuse fra i lavoratori che ancora non hanno deciso se sottoscrivere forme di previdenza complementare? Ma fondamentalmente i dubbi sono praticamente quasi tutti mutuati da una non conoscenza avuta all'interno della propria azienda nel cosiddetto semestre 2007, dove veniva espressa in modo estremamente chiaro. Anche Covip aveva costruito del materiale estremamente interessante, dove venivano spiegati appunto i fondi pensione, gli strumenti di previdenza complementare. Quindi questo, se vogliamo, è stata un po' una colpa che sta un po' a metà fra l'azienda e fra il lavoratore. Capisco l'azienda perché il TFR rimane in azienda e liquidità che può essere reinvestita, certo, piuttosto, esatto, che andare in banca, e invece in questo caso col TFR si deve trasferire altrove. Esattamente, però infatti la riprova è stata che oggi iscritti alla previdenza obbligatoria in Italia abbiamo 23.400.000 teste. iscritte alla previdenza complementare, i cosiddetti fondi pensioni negoziali aperti, fondi preesistenti e i cosiddetti FIP o PIP, sono circa 5.200.000 teste. Quindi ancora una platea molto ampia da raggiungere e che forse in questo momento difficilmente potrà essere raggiunta, dati chiari di luna sui mercati, perché si ha anche la sensazione che sottoscrivendo un fondo pensione si sottoscrivere un puro strumento di investimento che pertanto è soggetto alle oscillazioni del mercato, ed effettivamente i fondi pensione lo sono stati, perché negli ultimi 4 anni hanno dovuto sopportare anche, Andrea, tutto il peso della crisi. Assolutamente sì, e in particolar modo io invito sempre appunto i tuoi lettori a chi va, nel momento in cui si sceglie un fondo pensione bisogna fare un'analisi estremamente attenta del comparto che si va a scegliere. Quindi io dico sempre chiedete il progetto esemplificativo, probabilmente il vostro consulente, il vostro operatore della banca sarà in grado quindi di farvelo compilare e capirete immediatamente la tipologia del comparto prescelto, quindi il peso dell'investimento azionario presente nelle singole linee, nei singoli comparti. Quindi sfondo una porta aperta facendo questa raccomandazione per tutti coloro che hanno un'età giovane, quindi dai 25 ai 35-40 anni, e dovranno restare sul posto del lavoro per 35-40 anni, sicuramente sarà importante scegliere un comparto dove l'investimento azionario è più prevalente. Più mi avvicino alla quiescenza, andrò in un comparto tranquillo, addirittura in un comparto nei miei ultimi 3-4 anni magari che avrà una garanzia, quindi un rendimento minimo garantito che mi mette, diciamo così, metto tutto il mio fieno maturato negli anni, ho un montante importante, non rischio magari di perderlo come è successo nell'ultima crisi americana, quindi con gli investitori americani che avevano soprattutto investito e investivano ancora all'alba dei 65-68 anni, quindi un'età abbastanza elevata, investivano ancora in strumenti dove il 90% erano in azioni e molti si sono trovati in 6 mesi, in 7 mesi a perdere quasi tutto quello che avevano raccolto in una vita di lavoro. Allora, tra l'altro, rimanendo un po', poi magari ci ritorniamo su questi aspetti nella seconda parte di Salvadanaio, alle perplessità che ancora regnano fra i lavoratori che non hanno fatto nessuna scelta di tipo previdenziale integrativa, c'è anche l'aspetto legato al fatto che il TFR, qualora ci servisse, lo possiamo smontare abbastanza rapidamente con l'azienda e quindi magari avere subito a disposizione un po' di liquidità per comprare la casa, per far fronte ad una spesa improvvisa che la famiglia può aver necessità appunto di soddisfare. Per il fondo pensione, per lo strumento di previdenza complementare, appunto questa è una procedura un po' più complessa, sicuramente bisogna tenere aperto un fondo pensione per un po' di anni prima di poterlo smontare e avere liquidità disponibile, per cui ecco, queste sono anche le perplessità che ancora ci sono tra i lavoratori. Salvadanaio. È una bella azione regalare alla moglie casalinga una sua pensione o al figlio in fasce un fondo, in modo che possa accumulare un capitale importante che nel tempo si rivelerà strategico per affrontare il suo futuro. Il tutto permetterà a chi ha sottoscritto il fondo pensione di portare in deduzione all'aliquota marginale spettante l'importo regalato. È importante ricordare che possono essere a carico il coniuge e figli anche non conviventi, fratelli, genitori, generi e suoceri solo se conviventi. Il reddito non deve superare i 2.840,51 euro. Quello che abbiamo ascoltato in questa breve scheda era uno dei tanti consigli pratici forniti dalla guida Una pensione per te, il libro antipanico per pianificare il futuro, scritto da Andrea Milesio e Alberto Cauzzi, uno degli autori. Andrea Milesio è qui con noi oggi. Quindi, Andrea, regalare ad una familiare una pensione può essere, oltre che un bel gesto, anche, come dire, una scelta strategica e conveniente dal punto di vista economico. Assolutamente sì. Infatti sono diversi gli italiani che hanno capito che portare all'interno del proprio nucleo familiare un familiare cosiddetto carico, quindi che ha un reddito inferiore a 2.840,51 euro, è possibile per riuscire ad ottenere a livello familiare il massimo della convenienza fiscale in termini di deducibilità, quindi i famigerati 5.164,57 euro. Parliamo della... hai citato la casalinga. Io ci tengo a dire anche che oggi tutte le casalinghe, quindi che svolgono quindi un'attività lavorativa, saltuaria, in casa, quindi la classica massaia, se non ha superato i 65 anni può costruirsi una sua pensione, quindi di primo pilastro, una prima pensione obbligatoria. Semplicemente deve, do un consiglio veloce, versare quindi mensilmente un importo che parte da 25,82 euro, che è pari circa a 310 euro all'anno. Quindi la domanda di adesione può essere fatta anche via email andando sul sito INPS. Quindi, ed è possibile anche fare una contribuzione sugli anni, su anni passati. Su anni passati. Può decidere appunto gli anni che vuole inserire. Che vuole inserire. Esatto. E tra l'altro, Andrea, hai toccato un punto fondamentale, consigli pratici. Allora, quando noi, ammettendo che siamo nelle condizioni economiche, finanziarie, professionali di lavoro, di poter fare una scelta di previdenza complementare, un presupposto fondamentale dal quale dobbiamo partire è cercare di capire intanto quanti anni di lavoro ci mancano e quanti, presumibilmente, data la situazione attuale che continuerà a variare anche dal punto legislativo, dal punto di vista legislativo nei prossimi anni, quanto presumibilmente io andrò a prendere di pensione pubblica e da lì stabilire quanto devo integrare. Fare questo calcolo però è molto difficile, ci sono molti motori di ricerca che ci permettono appunto di fare questo calcolo previdenziale. Anche voi sul vostro libro forse avete la calcolatrice previdenziale? Sì Deborah, noi abbiamo cercato di inserire quindi 5 calcolatrici previdenziali e una biblioteca aggiornata relativa alla normativa sia che riguarda il primo pilastro che il secondo pilastro. Quindi io invito i lettori appunto che andranno ad acquistare il libro, quindi andare alla pagina 160 dove potranno trovare un percorso che li porterà in un ambiente dove in maniera estremamente semplice, anche con poche nozioni informatiche, saranno in grado di utilizzare queste calcolatrici. C'è anche una calcolatrice particolarmente interessante perché ragiona con una logica un po' diversa rispetto a quelle che anche andando su www.sole24ore nell'ambito della finanza quindi abbiamo rilasciato, in quanto parte con l'idea della rendita, ossia quanto io voglio avere di rendita quando avrò i miei 65, 69, 67 quindi, anni. Quindi ammettendo di volere, non lo so, 300 euro, chiaramente poi attualizzati, esatto, in quel momento, quindi 300 euro da integrare alla pensione pubblica che già riceverò, posso stabilire dal dato finale quello che in questo momento dovrei teoricamente versare mensilmente per poter arrivare a quel risultato? Esattamente, con la possibilità anche a scadenza, quindi ogni anno, di rifare il calcolo. Perché il calcolo logicamente deve tenere conto di una serie di variabili, soprattutto anche i cosiddetti coefficienti di trasformazione. Quindi, però se avrò la pazienza, e penso che la pazienza tanti radioascoltatori ce l'avranno interessati, quindi a capire quanto andranno a percepire o vorranno percepire una rendita in quiescenza, è un piccolo calcolo che si andrà a fare una volta all'anno. E ci tengo a dire anche tutti coloro che hanno sottoscritto uno strumento di previdenza complementare, fondo pensione FIP, non pensate che quando avete compilato il progetto semplificativo avete scelto il comparto, quindi tutto finisce lì. Ogni anno voi riceverete al vostro domicilio il progetto esemplificativo rifatto, mandato dalla vostra società, dalla vostra SGR, dalla vostra società di assicurazioni, e quindi dovrete leggerlo attentamente e capire se magari all'interno del vostro nucleo sono variati alcuni aspetti dal punto di vista finanziario. Quindi magari vi è aumentato il vostro reddito o è diminuito, quindi io potrò anche decidere di fare, di aumentare o diminuire i miei versamenti o addirittura cambiare anche, modificare il comparto. Ecco. Ritorniamo alla platea dei giovani che è sicuramente, sono sicura, molto sensibile all'argomento, ma oggi forse non ha le disponibilità finanziarie per poter fare una scelta di previdenza che adesso definiamo complementare, forse potrebbe essere solo l'unica, quella che molti giovani di oggi faranno, chissà se avranno e di che entità sarà la pensione pubblica fra 40-50 anni, fra 40 anni, insomma ammettiamo di dover parlare di ventenni che adesso stanno terminando l'università e quindi pensano al momento in cui collocarsi nel mercato del lavoro. E allora un altro suggerimento pratico in materia di fondi pensione che troviamo nel libro Una pensione per parte è quello che appunto individuiamo nel prossimo contributo che adesso proponiamo ai nostri ascoltatori. Si ritorna sulla scelta di fronte alla quale si sono trovati e si troveranno in molti, cioè se portare il TFR in un fondo pensione o lasciarlo in azienda. L'esempio pratico che andiamo ad ascoltare potrà sfatare, almeno cercheremo di capirlo, il falso mito, quello secondo cui il secondo pilastro è un'opzione da considerare solo per i giovani che hanno appena iniziato a lavorare. Sentite. Il TFR liquidato al lavoratore dall'azienda è sottoposto a tassazione separata, con la prima aliquota IRPEF al 23%. Il TFR destinato alle forme pensionistiche complementari è sottoposto a un'aliquota di imposta definitiva variabile dal 15 al 9% in funzione della durata di permanenza nel fondo pensione. Un esempio pratico. Il signor Bianchi ha 58 anni ed è in procinto di terminare la sua vita lavorativa per andare in pensione. Per lui è consigliabile e utile ricordare che può entrare nel fondo pensione rispettando la condizione che l'iscrizione avvenga un anno prima del compimento dell'età pensionabile prevista per la pensione di vecchiaia dal proprio regime previdenziale obbligatorio. Le sue buste paga finali avranno contributi che, anziché essere tassati con aliquote IRPEF più le addizionali, saranno tassati al massimo per un 15%. Chi l'ha detto quindi che il fondo pensione è uno strumento efficace solo per i giovani e non per i quasi anziani? Rimaniamo sul tema dell'efficacia solo per i giovani, Andrea. Visto che nel libro vi proponete, tu e Alberto Cauzzi, di rispondere ai dubbi dei lavoratori sul funzionamento della pensione di secondo e terzo pilastro, mi chiedo che risposte date ai giovani che vi esprimono questa perplessità. Io il fondo pensione lo vorrei fare, ma non ho le risorse perché ho dei contratti a tempo determinato in continuazione, ogni 6 mesi cambio lavoro, cambio settore, cambio azienda, non ho la prospettiva di avere una stabilità professionale nei prossimi anni e sempre meno ci sarà questa idea di stabilità professionale. Andrea, che risposte diamo a questi ragazzi? Ma sicuramente il problema da affrontare non è facile e non ha una risposta uguale per tutti. Io ritengo che in questo momento i lavoratori cosiddetti atipici, i lavoratori parasubordinati, a differenza quindi dei lavoratori dipendenti, si trovano in una situazione molto molto difficile e l'unica via d'uscita è questa: pensare di avere la necessità di risparmiare ogni mese qualcosa che potrebbe essere in termine percentuale vicino al 2 o 3% di quello che è il mio reddito che in quel mese, in quel trimestre, in quel bimestre riesco ad avere, è un primo passo. Però io ritengo che nell'immediato futuro, quindi già dal 2012-2013, l'attenzione quindi da parte del ministro del welfare sarà molto forte. È partito anche un fondo pensione dedicato ai lavoratori cosiddetti atipici, quindi di cui torneremo a parlare fra qualche mese. E quindi l'importante è iniziare presto, anche con poco, e soprattutto anche cercare di risparmiare. Lo so che è difficile con 700-800 euro al mese pensare di metterne 40 euro, 45 ogni mese in una sorta di scatola che mi servirà a raccogliere tutti i miei versamenti previdenziali, però lo devo assolutamente fare. Voi dovete anche... No, però ci hai già dato un parametro fondamentale, parliamo di, soprattutto se si è all'inizio dell'attività professionale, di cifre anche abbastanza modeste, mensile. So che 40 euro su 700 possono avere un'incidenza elevata, però non parliamo neanche di 200-300 euro, perché a volte c'è anche questa percezione che per poter costruire una pensione dignitosa si debbano subito accantonare delle cifre molto alte. Non è così. Io ritengo che il fondo pensione attui la stessa logica di un piano di accumulazione capitale, quindi il cosiddetto PAC. L'importante è essere coerenti, preparare un piano e quindi rispettarlo mese su mese. È logico che per arrivare ad avere un importo importante, prima riesco a versare, meglio è. Però io oggi sono proprio convinto che i lavoratori parasubordinati, lavoratori atipici, hanno dall'altra parte anche una tassazione un attimino diversa, quindi anche migliore. Voi dovete pensare che oggi un lavoratore dipendente del suo stipendio, del suo reddito, il 33% viene prelevato per andare a costruirsi il suo primo pilastro. Quindi a livello di INPS, l'INPS preleva il 33%. Un lavoratore autonomo, un libero professionista, ha un prelevamento che va dal 10 al 27%. Quindi un 33%, un 27% sono importi importanti. Allora, dall'altra parte si dice che domani i lavoratori parasubordinati dovranno essere anche loro assoggettati ad un'imposta importante che oggi è più della metà rispetto a queste che ho appena nominato. Quindi io dico, se lavoro, vengo tassato a fine previdenziale, a fine di primo pilastro, in modo estremamente basso, alla fine mi rimane anche poco di quello che io potrò andare ad investire. E la cosa buffa e anche molto curiosa che voglio sottolineare è la grossa riforma che sta partendo che riguarda le casse previdenziali, perché oggi probabilmente anche qualche ascoltatore che rientra nella categoria dei geometri, degli avvocati, dei notai, non sa che il saldo negativo delle loro casse di previdenza, che è un po' come l'INPS per un lavoratore dipendente, attorno a molte di queste casse, il 2034, 2031, 2027, avranno dei saldi negativi. Questo vuol dire che chi andrà in pensione potrà magari trovarsi in difficoltà per esigere quello che ha versato. Questo perché? Perché negli anni queste caste hanno diciamo così, versato dei contributi molto molto bassi, dal 5 al 6 al 7%. E inoltre sono state gestite anche in maniera estremamente leggera, un po' negativa. Ecco. Salva Danaio. L'ultima parte di questo Salva Danaio speciale estate, oggi allietiamo, speriamo almeno che sia così, i nostri ascoltatori col tema della pensione, presentandovi il libro Una pensione per te, non te l'aspettavi, sì è vero, Sperling ha deciso, scegliendo il titolo di questo libro appunto, di mutuare l'idea dalla canzone di Vasco Rossi, l'abbiamo fatta ascoltare all'inizio della trasmissione, il libro è stato scritto da un consulente finanziario, soprattutto l'uomo della formazione del gruppo Azimut, Andrea Milesio, insieme al collega Andrea Cauzzi, è il libro antipanico per pianificare il futuro, si parla dunque della situazione della previdenza pubblica in questo momento, qual è la situazione, quale potrà essere fra qualche anno e come bisogna, come dire, fare delle scelte corrette, adeguate anche alle proprie esigenze per costruirsi una pensione di scorta. Andrea, ti chiedo un'altra cosa, tutte le volte che mi è capitato di fare questa trasmissione, molti ascoltatori mi accusano, benevolmente naturalmente, non sono poi così cattivi, di voler fare delle trasmissioni che sposino esclusivamente la causa appunto del fondo pensione, quindi dell'industria del risparmio gestito, ma molto poco spesso come dire, valorizzo o do adeguata attenzione alle persone che invece fanno esclusivamente la scelta del TFR per convinzione. Secondo te chi deve mantenere il TFR in azienda? Ma secondo il mio punto di vista scegliere di mantenere il TFR in azienda è una scelta assolutamente personale e quindi anche condivisibile. Molti nella scelta del TFR cercano di capire quella che è stata la redditività del TFR su base annua, su base triennale e quinquennale. Io voglio essere molto chiaro. Dal 2006 al 2010 non c'è stato nessun comparto di fondi pensione aperti, chiusi, FIP, che ha battuto il TFR in termini di rendimento. È logico che ha giocato la grande crisi appunto che c'è stata nel 2008, in particolar modo crisi che ha toccato sia i mercati azionari che obbligazionari, e di conseguenza quell'anno quindi ha pesato in maniera estremamente esponenziale sulla non redditività del quinquennio. Mentre invece se io vado a fare una osservazione molto obiettiva su quelli che sono i comparti azionari dei principali fondi di previdenza complementare, su un orizzonte temporale superiore ai 20 anni, quindi dai 20 anni in avanti, allora non c'è stato nessun investimento che abbia battuto un investimento azionario, prendendo 20-20-20, quindi il cosiddetto, scusate il termine, il cosiddetto ventennio previdenziale, ecco. Però è giusto, quindi anche corretto, che il TFR negli ultimi anni ha avuto una redditività decisamente migliore. Punto. Poi io dico sempre, noi dobbiamo tenere conto anche di alcuni vantaggi pro TFR o alcuni vantaggi pro fondi. Vantaggio pro TFR qual è? Esente da costi. Dall'altra parte invece il grande vantaggio di un fondo pensione è dato dalla deducibilità, da questi 5 anni. La fiscalità di cui abbiamo spiegato. Esattamente, dalla fiscalità. E rapportata su un orizzonte temporale di 10, 15, 20 anni, acquisisce quindi una valenza estremamente positiva. Quindi però la scelta deve essere estremamente personalizzata e quindi io sono rispetto quindi chi fa una scelta piuttosto o l'altra, che l'altra. Assolutamente. Appunto. Allora, stiamo andando verso la fine della trasmissione, Andrea, per cui tenderei, se sei d'accordo, ad alleggerire un po' le tematiche delle quali ci siamo importantissime occupati fino a questo momento, solo per andare appunto con più leggerezza verso la fine della trasmissione, visto che siamo in pieno agosto e quindi siamo un po' tutti quanti mentalmente e anche fisicamente in vacanza. Allora, faccio ascoltare ai nostri ascoltatori un altro piccolo brano tratto dal tuo libro. La pensione per molti è anche l'occasione per, una volta andati a riposo, realizzare i propri desideri e ad esempio fare una vita da signori anche con soli 500 euro al mese. Si può fare, vi sembrerà una cosa impossibile, per molti è un sogno che è diventato realtà scegliendo come residenza una meta straniera una volta finito di lavorare. Sentiamo un po' che cosa racconta su questo Una pensione per te. Sono molti i nostri connazionali neopensionati che a partire dalla fine degli anni 90 hanno abbandonato il bel paese per costruirsi la seconda giovinezza scegliendo mete extraeuropee. È curioso constatare che sulle rotte dell'emigrazione il fenomeno della terza età negli ultimi anni ha avuto una crescita esponenziale, indipendentemente dalle risorse finanziarie che i nostri signor Rossi e Bianchi potevano togliere dal loro salvadanaio. Certo, investire la totalità della liquidazione per acquistare una villa a fronte mare ai Caraibi poteva essere un azzardo, ma se l'importo dovuto era di un terzo del valore della liquidazione, allora le cose cambiavano totalmente. Spirito di sopravvivenza, togliersi lo sfizio sognato per una vita, dimostrarsi ancora vivi e in forze. Sono tante le motivazioni che possono spingere a un cambiamento radicale della propria vita. Ma alla fine forse la vera ragione è una. Perché non vivere bene con pochi soldi? Ecco spiegato perché annualmente dalle casse dei principali enti previdenziali italiani arrivano nei paesi stranieri oltre 1 miliardo di euro per oltre 500.000 trattamenti pensionistici tra anzianità e vecchiaia. In Brasile o a Santo Domingo, con 700-1000 euro al mese, si vive da signori, godendo di un clima splendido, di una cucina prelibata, che contempla pesci di ogni tipo a prezzi pari a un hamburger comprato nel nostro paese. Alla base, la strategia di partenza è molto semplice. Si affitta il proprio immobile in Italia e si impiega la rendita maturata affittando una casa nel paese estero individuato. Con il resto si mantiene una vita dignitosa, altrimenti si decide di acquistare l'appartamento o la villa direttamente dove porteremo la nostra residenza. In paesi come Brasile, Kenya e Santo Domingo si possono trovare case a prezzi bassi e agevolazioni fiscali rivolte agli stranieri. Gli italiani che scelgono di trasferirsi all'estero lo fanno soprattutto per trascorrere una vita migliore e spendere meno di quanto oggi in Italia spendono per vivere sufficientemente bene. Può sembrare strano, ma esiste la possibilità non solo di sopravvivere, ma di vivere bene con redditi mensili che sfiorano i 500 euro, ovvero il corrispettivo della pensione minima erogata in Italia. Belize, Cambogia, Costa Rica, Filippine, Panama, Thailandia sono solo alcuni dei paesi dove possiamo vivere da signori. Andrea Milesio, io sono andata in vacanza qualche settimana fa dall'altra parte del mondo, in Nuova Caledonia, un'isoletta molto piccola. Praticamente ho cambiato, sì lo so che ti stupisci, ho cambiato 40 euro, mi sono bastati per 4 giorni. Io teoricamente potrei essere con 500 euro ricchissima, mi è costato uno sproposito il volo, però teoricamente così ho lanciato l'idea di un'altra meta per andare a chiudere così il periodo, il proprio periodo di vita dopo tanti anni di lavoro. Detto questo, senti un po', raccontaci chi è il pensionato d'oro d'Italia. Ma guarda, ultimamente sono state fatte una serie di classifiche. Io non voglio fare i nomi perché non è bello, quindi fare i era nomi. Era un alto dirigente della team. Diciamo che l'ex direttore generale della team, un manager telefonico estremamente competente, bravo, e ha avuto la fortuna appunto di avere mutuato il calcolo della sua pensione esclusivamente con il sistema, quindi retributivo, quindi col sistema migliore, e oggi ha un assegno di quiescenza, quindi un assegno previdenziale di 90.000 euro al mese, lordi però, sottolineo. Eh sì, quindi. Certo, perché infatti i netti saranno pochi, quindi no, per ricordarlo anche ai nostri ascoltatori, il sistema retributivo è quel sistema che permette di calcolare l'assegno pensionistico sulla base dell'ultimo reddito percepito. Magari per 30 anni si è lavorato ad un reddito, come dire, modesto, normale, poi improvvisamente il colpo di fortuna professionale che ci permette di guadagnare negli ultimi 2 anni di vita lavorativa uno stipendio da favola, la pensione è parametrata. Però adesso quel sistema non esiste più, adesso è misto. In questo momento si andrà sempre di più verso quello contributivo. Sì, esatto, per l'esattezza, ecco, il sistema retributivo fortissimamente voluto quindi dal professor Amato, ha fatto la fortuna di molti, ecco. Infatti, e sarà la nostra sfortuna invece, caro Andrea, perché noi andremo in pensione con ben altro. Senti, ci mancano pochi minuti prima dei saluti. Qual è il libro, nel libro che hai scritto appunto con Alberto Cauzzi, il capitolo a cui tieni di più? Ma sicuramente ritengo estremamente importante leggere uno specifico capoverso che riguarda tutti coloro che sono in pensione, quindi i cosiddetti normalissimi pensionati, che si trovano a far fronte a delle spese improvvise, quindi hanno bisogno di chiedere appunto dei finanziamenti, oppure godono di una pensione, diciamo così, estremamente bassa, intorno ai 550, 600, 600 euro. Ebbene, ci sono appunto delle possibilità dal punto di vista di aumentare il proprio benessere, quindi scegliendo delle forme che coinvolgono il proprio immobile. Che cosa vuol dire? Vuol dire che possono sfruttare alcune agevolazioni. È il prestito vitalizio, se non sbaglio. È il prestito vitalizio e esiste anche la nuda proprietà. Quindi io ho voluto fare una bella distinzione fra il primo e il secondo, perché ritengo che se non ci fossero presenti dei figli, degli eredi, è un qualcosa che è giusto affrontare, quindi magari per gli ultimi 20 anni della propria esistenza scegliere di viverli in modo, quindi, certo, più dignitoso. Insomma, ecco. Non è che una volta che uno ha raggiunto la pensione i problemi siano terminati, ce ne possono sopraggiungere altri e dover gestire anche quelli. Esatto. Andrea, grazie per essere stato con noi, ti aspettiamo per la tua prossima sfida editoriale, sono sicura che tra un anno per un'altra puntata estiva ti avremo qui con noi per un altro libro. Per adesso buon lavoro e grazie ancora. Grazie a voi e buone vacanze a tutti. Grazie a Marco Lombardi per la collaborazione in redazione, Marco Lombardo, non so perché mi è venuto con la I questa volta, è così, è andata così, Valeria Bernardi per l'assistenza tecnica, da Deborah Rusciani, buona giornata, domani.